Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti. Come ogni mercoledì, il mercoledì del live. Stasera io sono molto onorato, mi piace, sono molto contento. Finalmente abbiamo un gruppo che fa esclusivamente blues. Non è propriamente detto, però la radice è il blues. Buonasera a chi viene da Brescia, si chiamano i Check Deluxe. Buonasera ciao a tutti. Ciao. Avete fatto un buon viaggio. Ciao. Grazie. Ottimo grazie, viaggio. Sì. Bene, ottimo viaggio. Non c'era nebbia, c'era un po' di non acqua. Non c'era nebbia, c'era un po' di acqua, l'autogrill era ottimo. Tutto si bene. Mangiava bene, sì. E il blues come si mangia musicalmente parlando? Si mangia in orari disordinati. Ecco, esattamente. Di solito si tende a mangiare di notte e a bere dalla mattina. No, come faceva De André, lui praticamente di notte lavorava e beveva la mattina e poi andava a letto, ecco. Andrea, l'idea di questo gruppo blues, da dove nasce l'idea, il tuo amore per la sei corde blues? L'amore per la sei corde, per la chitarra blues, nasce quando ero adolescente, a 15-16 anni. Attraverso la passione che avevo per i gruppi inglesi anni 60, come i Rolling Stones, i Beatles. Non John Mayall. Anche John Mayall. Che è il padre di tutto. Mi piaceva molto, esatto. E dopo, attraverso appunto questi gruppi inglesi, sono andato un po' a ascoltare anche gli artisti ai quali si riferivano degli anni 50, come Muddy Waters, Elmore James. E da lì pian piano ho preso passione della chitarra e ho iniziato un po' a imparare, un po' da solo, un po' dagli amici. Brescia, cosa ti ha dato? Cioè, tanti gruppi sono nati a Brescia, PFM è uno di tanti. Io vengo da una valle, la Val Camonica, una valle di montagna, e circa una decina d'anni fa mi sono trasferito a Brescia, che comunque dal punto di vista musicale cambia un po' tutta la situazione, perché Brescia, anche se è una città piccola, provinciale, e dedita all'industria, tutto quello che vuoi, stranamente c'è comunque una scena musicale molto viva, veramente molto viva, un sacco di gruppi che fanno un sacco di cose, che fanno dischi, sì, che fanno gli studi di registrazione, esatto. Carlo Slim, il nostro insomma, produttore, dopo parliamo di Carlo e andando le sue produzioni. Trasferendomi a Brescia ho avuto modo di incontrare appunto compagni di viaggio, grandi amici come Pietro Maria, come Carlo, esattamente, con cui, prima c'era un'altra band, aveva un altro nome, sì, però si chiamava Check Out, che diciamo il progetto originario, che era il classico trio rock blues, e suonavo con due fratelli della Valtellina, Marco e Paolo Xeres, due bravissimi musicisti, tra l'altro sono sempre in giro a suonare ancora adesso, in giro per tutto il mondo, veramente grandi, anzi colgo l'occasione per salutarli. Ciao. Ecco, li salutiamo se sono all'ascolto, chiaramente. È cambiata, dimmi, un po' andando avanti, poi ho fatto 5 anni con loro, sono cambiate un po' un po' la voglia di fare musica insieme, gusti diversi, e poi in coincidenza ho iniziato a suonare con Carlo, con Pietro, insomma siamo tutti bresciani, siamo amici, e da lì ho continuato con loro. E ora Andrea, Cech Franceschetti e dunque Pietro, sì, Maria, si chiama il Marchese, perché ti chiami il Marchese? Ma guarda, a dire il vero è un nomignolo che mi hanno attaccato i miei amici. A Carlo Slim è stato lui. Lui è stato lui. Tutto, sì. Io e allora così, allora mi fa piacere così, ma così ogni tanto dico il Marchese, non lo so. Quindi forse perché sei bravo, perché hai un certo modo di suonare il basso, non so, ma così mi piace pensare, ecco. Sì, o forse perché, ma sì, probabile. Temperamento affabile. Forse. Ecco, temperamento affabile. Allora, Andrea suona la chitarra, tu suoni il basso e sì. Carlo Slim, il produttore del disco, suona la batteria. Esattamente. Sì. Perché Carlo Slim? Perché l'idea di produrre, di coniugare, di prendere l'idea di Andrea e di Pietro Maria e metterli su come produzione? Ma a dire la verità, il gruppo è nato prima di, cioè il disco è venuto dopo, l'idea di fare un progetto discografico è una cosa che è venuta di conseguenza al nostro incontro artistico, perché inizialmente abbiamo sempre suonato così in amicizia, per divertimento, e vedendo che il divertimento comunque portava dei risultati concreti abbiamo deciso di concretizzarli in un disco, anzi dopo è diventato due dischi. Un live che è uscito poco tempo fa. Dobbiamo sottolineare una cosa, stasera suoniamo in acustico, ma questi tre signori hanno una cosa cioè devastante dal punto di vista del live, sono molto cattivi stasera, chiaramente lo facciamo in modo acustico, sì, sì, ma sono potenti, vero Andrea? Qual è questa potenza, anche se un po' liviegata rispetto al disco precedente? Il nuovo disco è un po' meno potente nel senso positivo del termine, un po' più con una ricerca un po' di suoni diversi, chiaramente c'è meno tensione emotiva nel senso positivo del termine, c'è più ricerca, tu hai trovato dei suoni un po' diversi, mentre l'album precedente, sempre prodotto da Slim, era proprio duro nel senso positivo. Ah, penso che la differenza venga più che altro dal fatto che il primo disco è stato, diciamo, registrato che dietro non avevamo molto tempo in cui era stata una cosa, diciamo, la prima più istintiva. Il secondo invece è stata una cosa più ispirata da parte di tutti e tre, perché c'è stato anche il viaggio in America. Esatto. Ma parliamo del viaggio in America, c'è stati tanti concerti fatti insieme, tante esperienze, perciò il secondo, secondo me, è più, cioè, è più ricercato, più che altro secondo me rappresenta un po' di più il gruppo proprio in sé, i tre elementi del gruppo, che il primo album magari era più, siccome io ho più esperienza in studio rispetto agli altri ragazzi, perché comunque io ho sempre suonato, ho sempre avuto la studiostazione, ho sempre avuto tante esperienze di registrazione, è un gioco che ho diretto molto io. Ma ho cercato di fare in modo che tutto tornasse, però chiaramente ho messo molto del mio, certo, a livello proprio di produzione. Cioè. Invece questo album avevamo cercato invece di essere un lavoro più corale. Tutti e tre abbiamo dato un contributo proprio equale nella composizione che nella produzione. E che funzione hai avuto, Carlo Slim Pod? Come sono Podigay? Podigay è il mio cognome. È il tuo cognome, Podigay, Carlo Slim, ti chiamano chiaramente. Carlo, chiamiamo Carlo, facciamo prima. Che funzione hai avuto tra il primo e il secondo album? Cioè, Andrea e Pier Maria davano a te, tiravano fuori un pezzo. La produzione, in che senso è produzione? Cercavi di minimizzare certe cose? La produzione può essere, la cosa più pratica è la scelta dei suoni, la registrazione. Ecco, esattamente. Proprio, cioè le tecniche di registrazione che vengono adoperate per registrare il suono del gruppo. Però può essere anche, diciamo, una direzione che prende un disco, perché un disco è un po' un biglietto da visita, uno statuto che il gruppo fa per dire questa è la mia dichiarazione di intenti. Perciò il produttore di solito cerca di mettere a fuoco esattamente la direzione che vuol prendere la musica del gruppo. Certamente. Senza snaturare la natura, anzi cercando di tirar fuori le cose più significative. E avete preso un'ottima direzione, come abbiamo scritto nella presentazione, uno che suona a New Orleans, a Austin, ci vuole un bel po' di forza. E il primo disco, prodotto sempre da Carlo, con voi due chiaramente protagonisti, dava un certo seguito. Se uno va in tournée negli Stati Uniti, come si sa che è la patria del blues, non è mica tanto semplice, bisogna avere, non dico cosa, ma sì, ho capito cosa. Ma paradossalmente suonare la nostra musica laggiù invece... ci si sente quasi invece meglio, più accolti, è quasi tra virgolette più cioè c'è comunanza di intenti, più semplice con la nostra musica negli Stati Uniti rispetto in Italia. In Italia è più difficile, diciamo che quell'imbarazzo ovviamente dovuto alle differenze culturali e musicali tra noi e un americano è stato superato, perché comunque là la musica si respira dappertutto a tutte le ore, non ci sono delle barriere, non c'è niente, cioè, no, perché ci si sente, noi che amiamo la musica e suoniamo, ci si sente molto più a nostro agio laggiù che non qua. Perfetto. Adesso siamo sicuramente anche noi a nostro agio, perché sentiamo il primo pezzo dall'album che abbiamo deciso di fare a sentire adesso da disco, e poi cominceremo a suonare. Che traccia avete scelto, vi ricordate? Certo, abbiamo preso Rock and Roll Pop, che è il primo pezzo del nuovo album. Perfetto, che si chiama il nuovo album? Il titolo del nuovo album? Royal Rumble. Royal Rumble. Ecco, perfetto. Ok, sentiamo il primo pezzo, dai. Ok. Radical space, but it's best. Rockwave, l'onda del rock. Eccoci qua, stiamo sempre ascoltando Rockwave. Io sono Maurizio Calzavara, al microfono, in regia stasera c'è Agostino Spolaore e alla webcam c'è chiaramente Roberto Baldi. Salutiamo anche le nostre tre ascoltatrici assidue, sono la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che ci sentono sempre. Saluti. Okay, vabbè, salutiamo queste ragazze, ok? Ciao. Benissimo, allora parliamo di questo pezzo, che è un classico pezzo blues, con qualche variazione, ma è un classico pezzo blues vostro, assolutamente vostro, farina del vostro sacco. Come è nato, come si è sviluppato, Andrea? Che pezzo è, scusa? Rock and roll. Ah, rock and roll pop? Sì, rock and roll pop. Sì. Com'è nato? Sì. La penna è sua. A Carlo, l'hai scritto a te, sì. Questo. Ma diciamo che c'è questo nostro amico che è un grande rocker del lago di Garda, il nostro amico che salutiamo, il grande Renato, e che è un personaggio che ha vissuto la vita molto rock, proprio anche proprio nell'attitudine, proprio nella visceralità del termine. E avevamo voluto dedicargli un pezzo che il titolo significa il Papa del rock and roll, proprio visto come la somma e la figura più importante che c'è nella chiesa del rock and roll, di cui noi siamo tutti ovviamente fate parte. Sì, siamo tutti. Ho capito, cioè praticamente. È stato un po' il nostro, in questo disco, un po' il nostro grande ispiratore per quanto riguarda l'attitudine rock della nostra musica. Grande arena. E dal vivo, come lo fate questo pezzo? Visceralmente, cioè abbastanza tirato, pomposo. Sì, dal vivo cerchiamo di. Ah, io quando suono dal vivo questo pezzo penso al nostro amico, al Chuck. Ah. Che è proprio il rock, io penso al Papa del rock and roll e lì sì, viene fuori la cosa. Quindi è l'ispiratore praticamente, sì, di questo pezzo. Sì, scritto per lui, ispirato a lui, il testo proprio parla, insomma, di sì. Queste immagini che richiamano lui ed ecco, ed è. Ma è il primo pezzo che suonate apertura dei concerti, questo qua, oppure no? Questo è uno che solitamente lo teniamo verso la fine. Ah, per dare, per muovere la gente. Enfasi, c'è molta enfasi. Sì. Benissimo, cioè, c'è molto trasporto per far muovere la gente. È vero, quindi partire subito con quello vorrebbe dire. Rompere, rovinare il discorso. Esatto. Il discorso deve andare lentamente e poi si sviluppa e si amplia chiaramente. Ok, sono le 22, abbiamo il nostro orologio digitale, 22:20, 49 secondi e 50 secondi. Adesso abbiamo deciso, Agostino, di passare a suonare chiaramente. Cosa suonate adesso? Cosa avete deciso di suonare? Bad check, vai. Ok, benissimo. Sip of me again. Just like you by the checking in, keep on buzzing back. All I have is that moon died by you today. Checking out, keep on buzzing back. Thank you. just like you better check it out. Cosa possiamo dire? Rifammi la solo che hai fatto all'ultimo momento. Dunque, Andrea alla Fender Stratocaster, Pietro Maria al basso Fender e Carlo alla batteria. Ladies and gentlemen, check the looks. Ecco, ecco, va bene. Ecco. Perfetto. Un grande pezzo blues con grande velocità, proprio si rincorre, volutamente si rincorre. Come mai, Andrea? Un ritmo saltellante. Un ritmo saltellante, giustamente. Sì, va così. È nato così, un pezzo un po' rockabilly, dai. Sì, un po' rockabilly, esattamente. Mm-hmm. Blues con una parvenza di rockabilly. Sì, sì, ma esiste, sì. C'è spesso la commistione tra blues e rockabilly. Sì, il blues, il country, il rock and roll, sono tre generi sono che si mischiano sempre. La stessa sempre. Chiesa con il rito ortodosso, il rito cattolico, certo, protestante. Certo, parte sempre da qui. Sono sempre loro. Sempre loro che... Ma suonare il blues... Che sensazione dà, ragazzi, quando suonate, senti, sul palco? Adesso siete in versione live acustica, ma è già una sensazione anche questa. Quando suonate sul palco e date emozione, date sensazione a questa gente, alla gente che vi ascolta, cosa dà il blues? Beh, non lo so. È uguale. Chiaramente lo suono perché mi piace, dopo se la gente... Ho la fortuna a volte che piace anche a loro, bene, ma... Va bene lo stesso. Sinceramente non è che ho schiera di fan... Però il blues è un amore. Anzi, è un amore. Per tornare a fare un concerto bisogna. C'è difficoltà a fare un concerto di blues, sì, in Italia, sì. Poi tieni presente che blues, noi siamo tutti gli amanti del blues. Tutto, ma tipo in Italia il genere blues non tira tanto. Non tira tanto, quei pochi che lo suonano proprio un blues, diciamo, tradizionale. E noi non facciamo quel genere lì, perciò facciamo fatica anche a trovare quegli spazi. No, alla Robert Johnson, so, praticamente. No, purtroppo no. Fate un blues elettrico voi, chiaramente. È difficile trovare. Bagnato di rock and roll. C'è anche tanta concorrenza. Cioè, in che senso c'è, Andrea? C'è tanta concorrenza? Ci sono tanti gruppi che suonano il nostro genere. ho capito. No. Quindi c'è difficoltà a trovare qualche data? Sì, un po' di difficoltà, sì, sì. Però, in Italia soprattutto. Soprattutto in Italia, all'estero no, però. All'estero magari già un po' meno. Sempre. Ecco, raccontatemi la vostra esperienza americana, visto che abbiamo parlato, abbiamo accennato. Quando siete stati in State a presentare il disco precedente? Ah, è stata un'esperienza, è stata molto molto bella, fantastica. Una band, tre ragazzi, tre amici, un disco nuovo, una grande carica. E in più l'occasione, quello che ha fatto partire il volano, è stato praticamente il Czech. Ha vinto la selezione di un festival dedicato al genere blues, dove il suo premio era di andare a rappresentare l'Italia negli Stati Uniti. E noi in quel periodo, proprio che Andrea, proprio in quel periodo che aveva vinto questo concorso, abbiamo detto sarebbe bello se potessimo andare tutti e tre assieme e portare il nostro progetto. Abbiamo messo insieme due o tre contatti negli Stati Uniti, da una cosa è nata un'altra, avevamo dalla nostra parte una buona carica e anche la fede nei nostri mezzi, e ringraziando il cielo siamo riusciti a fare, non c'è stato nessuno che ha detto vogliamo i Chad Lux negli Stati Uniti, diciamo che noi abbiamo visto che volendo siamo andati lì, abbiamo portato il nostro disco, un concerto dal passaparola, insomma sono triplicati. Ed è stato molto bello, insomma, riuscire a fare un viaggio. Ma siete stati anche a Memphis? Siamo stati anche a Memphis. Sì. Tennessee, profondo su. Memphis, nel Mississippi, a Indianola. Ma che situazione si respira a Memphis, a suonare a Memphis? È una bella cosa. È una bella storia, perché è lì la musica c'è dappertutto. È musica che è una cosa comune, cioè una cosa che tutti hanno la musica nel sangue praticamente. Qua è un po' più difficile, avete ragione. Sì, suonare blues in Italia non è semplice, non è facile, questo è vero. C'è chi incontamina il blues col rock, con la canzone pop, sappiamo chi, per esempio Pino Daniele, un nome che ha cominciato a fare delle cose meravigliose, poi per acquistare maggiore pubblico ha un po' cambiato, poi adesso è ritornato al genere di una volta. Ma sono tutti discorsi, l'importante è suonare, farsi sentire. Esatto, guarda, hai detto proprio bene, effettivamente è proprio così, perché poi sembra quasi che si fa il funerale. No. In Italia si suona, fortunatamente quelli che suonano tanto è perché suonano bene e hanno qualcosa da dire. Esatto. Ecco, e noi speriamo di essere, di poter, quelli che con la nostra musica andiamo, si suona, si fa, dopo ecco... Tutti gli altri discorsi sono solo... Non credo che sia una cosa di genere, chi fa blues, chi non fa blues. No, assolutamente. Bisogna suonare. Ecco, quello alla fine è quello che hai. Il termine è quello, suonare. In Italia non c'è questa idea di suonare. Mentre negli Stati Uniti, siete stati nei paesi esteri, c'è proprio la voglia. Cioè, il suonare è una cosa fondamentale. Il live è la prima e poi tutto il resto viene. Sì, è vero. Penso che tu hai detto bene. Effettivamente il live è parte... E tornando a prima, poteva sembrare una cosa un po' strana, esotica, che tre ragazzi italiani andassero in questi posti che sono famosi. E invece lì, diciamo che se parli quel linguaggio e la cosa arriva... Io ricordo un episodio che mi ha raccontato un ragazzo che è venuto qua, un suo amico è stato negli Stati Uniti, in un bar, aveva un violino, ha cominciato a tirare fuori il violino, a suonare. In bar, vedi caso, c'era un signore, si chiamava Bruce Springsteen, di fianco al bar, seduto anche lui, l'ha detto, vieni su in palco con me, e hanno cominciato a suonare. Lui era Bruce Springsteen, tuo ragazzo, è un ragazzo. Vedi te. Quindi non c'è divisione negli Stati Uniti, se uno suona, c'è il feeling, si crea, che sia Bruce Springsteen, sia Neil Young, sia un emerito sconosciuto, non vuol dire assolutamente nulla. Sì, fortunatamente quando uno chiude gli occhi e ascolta con le orecchie... Non vede, niente, non vede altro che possa fraintendere o possa far distorgere su, insomma, quello che è. Forse lì, forse sì. Forse c'è, perché c'è molta più musica. Sì, la musica è una cosa che è comune, non esatto. È una cosa straordinaria come qua qualche volta. Sì, delle volte qua non è nell'ordinarietà, è vero, forse in quel senso, sì. Andiamo avanti, suoniamo un altro pezzo, questo da disco. Che pezzo avete scelto, ti ricordi? Certo, allora potremmo fare. Ah, eccola qua la traccia, eccolo qua. Potremmo far sentire dal primo album, invece adesso. Ah, quindi dal primo album è questo qua, quell'altro. E allora, quello è il primo album, esatto, è colpa mia. Potremmo far sentire la Morning Rain. Morning Rain, sì. Ne vuoi presentare un secondo? Certo, Morning Rain è del primo album, la canzone più che ricorda le radici del blues. Mm. Come se un musicista di country blues avesse avuto il distorsore e gli amplificatori elettrici. Ho capito. Ed è il brano, così, è quello che noi abbiamo messo come primo album, come primo pezzo, mi sembra. Sì, perché sì. È proprio quello, come dire, oh, ma questo qua è troppo forte, dov'è che lo mettiamo? Dobbiamo metterlo all'inizio. Mettiamolo all'inizio e poi basta, il resto verrà da sé. Perfetto, perché io adesso lo sentiamo e poi ne parliamo ancora. Yeah. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, questo era l'inizio di Hanging Backs, che è il disco di inizio di questa avventura nuova. Sì, esattamente. Esattamente, prodotto sempre da Carlo, sempre chiaramente. Carlo il produttore. E, l'idea per produrre questo disco, come ti è venuta? Abbiamo già parlato. Ma, che... beh, c'è una cosa, adesso magari il fatto di continuare a dire che sono produttore mi comincia un po' a diventare un po'... nel senso che il disco, diciamo che l'ho prodotto, nel senso che ho fatto il tecnico del suono, ho fatto il... In alcuni punti magari ho visto qua e là due cosine sull'arrangiamento, ma è una cosa, questo è un lavoro sempre di gruppo. Diciamo che il disco alla fine è stato prodotto dal gruppo. Cioè praticamente che... hai messo, cioè tu hai dato l'input per collegare magari i diversi punti di vista. La produzione appunto può essere vista come una supervisione del lavoro del gruppo, ecco. Però buona la prima o no? Buona la prima o quasi buona la prima? Ma alcune canzoni sono state buone la prima, sì, sì. Questo è importante. Come registrazioni, poi altre sono magari le abbiamo registrate due o tre volte perché magari non erano mai soddisfacenti da certi punti di vista, soprattutto tecnici, perché diciamo che c'è sempre la questione tecnica, essendo anch'io tecnico del suono, perciò era un po' una via di mezzo tra il musicista e il tecnico, perciò erano dei conflitti di interessi che mandavano un po' fuori di testa. È difficile però dividersi tra produttore e tecnico. Sì. E partecipante alla band. Si è molto dentro nel lavoro. Esattamente. E niente, diciamo il primo album è stato una cosa più veloce rispetto al primo. Il secondo è più pensato. Sì, e il primo, i pezzi erano già pronti da tempo, eravate pronti nel cassetto e poi avete tirati fuori al momento giusto, oppure sono nati al momento? Il primo disco è stato più un lavoro magari fatto per il disco. Un paio di pezzi li suonavamo già nei live, ho capito. Magari non avevano il testo, non erano finiti, erano diciamo degli abbozzi. Perciò il disco, il primo album è stato un po' il momento in cui ho detto ok, facciamo le nostre canzoni, queste sono le nostre canzoni, questi sono i testi, qui c'è tutto l'insieme ed è il nostro biglietto da visita. E vi capita mentre di... Mentre il secondo disco, per esempio, la differenza è stato che è nato durante i concerti. Ecco, perciò quando siamo arrivati a registrarlo, i pezzi erano già belli rodati, erano già maturati nei live, perciò nel disco probabilmente si sente un po' più il suono del gruppo. Esatto, io volevo proprio dire questo, cioè alcuni pezzi dei Royal... Rumble, sì, e sono stati creati proprio dal vivo, suonandoli praticamente. Sì. È quello importante. Sì, è un po' la differenza rispetto al primo disco, appunto, che invece era più pensato in studio. Può essere un live anche lo stesso. Possiamo identificare come live anche la registrazione del disco stesso, oppure no? Ma alcuni pezzi, nello specifico, magari nei titoli, c'è questa Postman Blues, è proprio una presa diretta, proprio completamente indietro. Anche un'altra canzone che si chiama Wasting My Time, che poi suoneremo dopo. Sono canzoni che sono nate proprio come le facciamo dal vivo, cioè in presa diretta, abbiamo solo sovrainciso le voci per questioni tecniche, però cioè, l'esecuzione è completamente live, non ci sono artifici proprio. E tecnicamente come nasce l'idea? Parte da Andrea, parte da Pietro o parte da te? No, parte dal gruppo. Parte dal gruppo, assolutamente dal gruppo. Molte volte, non so, può essere Andrea che... il check che magari propone un'idea e che viene sviluppata all'interno, magari posso proporre un'idea, cioè diciamo che le canzoni nascono in maniera molto democratica, nel senso che ognuno porta la propria idea e poi dopo si mette tutto nel calderone, si mescola e viene fuori la canzone. Perfetto, chiaramente. Salutiamo anche Alberto Prisco, che è il nostro organizzatore, che vi ha contattato, che grazie a lui siete venuti qua stasera. Alberto, contattaci! Ok, allora adesso suoniamo, cosa suoniamo? Facciamo Lady of the Night, che è la canzone, la ballad di lento del primo album. Che bello, è la traccia numero 6 per chi non ha il disco davanti, è la traccia numero 6. E questo parla del lavoro più antico del mondo. Ah, ok, perfetto, abbiamo capito. Sì. Lady of the night, that taste of paradise, like the other wine, she's pretending to be fine. The cosmic piece is high, but she's gonna treat you right. make a deformation time. Gonna make it to your spine. Scent of time is running low. Lady of the night is gonna try to run away. Running off the night is the way to die fast. Sunlight on her face, time she's getting paid. Darkness all around, every time she's getting late. Like a table mentioned time, gonna make it to your spine. Sound of time is running low, low. Sì, fino all'ultimo momento, non si può tagliare anche l'ultimo suono, è quello fondamentale, questo bel blues lento. Io ho scritto nella recensione quasi cleptoniano, non so se siete d'accordo. Leggermente cleptoniano nel senso positivo del termine. Ah no, ma c'è tutto di positivo. Ricordiamo cosa ha fatto Clapton con i Cream, quindi altre cose. Quindi leggermente cleptoniano, ma assolutamente farina del vostro sacco. Beh sì, io credo che insomma... credo che essendo un genere in quanto tale che ha dei tratti che si possono identificare, essendo proprio un genere che ha delle caratteristiche, i nomi sono Clapton, ma io mi immagino che ci sarebbero tutti. Una infinità di cose. Sì, non per presunzione di dire no. Ricordiamo tutti, ma perché avendo ascoltato tanta gente e tanti generi è ovvio che viene fuori, un po' come l'accento. Certo, forza certo. Di stare in un posto, parli in un modo e quindi viene fuori insomma. Gli dai questa ballad, tra virgolette, com'è nata? Al di là del testo che abbiamo capito, ma questa musicalmente. Qua nello specifico, questa qua nello specifico, Lady of the Night, è nata da Carlo. È un pezzo sempre, di Carlo sempre di che Carlo. Lui nel primo album ha detto, ragazzi, io ho questa canzone che secondo me potrebbe andare, vi piace? L'aveva fatta quando aveva 15 anni. Sì, sì, l'ho scritta quando, sì. L'aveva fatta quando aveva 15 anni. Però sì. All'epoca suonava. Sì, quindi, sì. Ah, Carlo ha sempre suonato. Hai cominciato a suonare, dicevi? No, io suono da praticamente da una vita, proprio quando sono nato praticamente. Praticamente suono da un sacco di tempo, sì, anche sì. Se molto giovane Carlo, si vede in webcam molto giovane, rispetto sì, a me sì, sicuramente, sì. Molto giovane. Quindi è un pezzo che tu hai scritto, che poi hai dato al gruppo, lo sviluppiamo, lo ampliamo. Sì, sì, sì, sì, sì. E fa parte dell'ultimo album questo. Questo è il primo, questo è il questo primo. Questo è Lady of the Night. Questo è Lady of the Night. E mi confondo con la traccia numero 6. Sì, sì, è una cosa lenta anche quella. Sì, sì, sì. È una lenta anche quella. Anche quella è cleptoniana, secondo sì, me. Sì, sì, sì, sì, anzi, sì. E forse c'è un'affinità, c'è un collegamento, diciamo, per quello che mi tra l'altro per quanto riguarda il testo di Lady of the Night non vorrei che sembrasse un testo di un'esaltazione alla prostituzione. No, assolutamente. È una canzone anche molto, per certi versi, moralista, nel senso comunque fa vedere che la dissoluzione di questa vita porta... Cioè, c'è l'immagine di una donna che di qualcuno che cammina su un lago ghiacciato che da un momento all'altro potrebbe rompersi e finire insomma nell'abisso del ghiaccio, della morte, insomma. Cioè, insomma, è anche un testo abbastanza un po' non, sì, al di là niente di straordinariamente sì, sì. poetico, però comunque non è sicuramente un'esaltazione, ecco. E vorrei che mai si dicesse che i Check Drag sono un gruppo immorale. Ah, no, assolutamente no, assolutamente no, sì, è una canzone dedicata alla nostra amica che abbiamo detto guarda, ti abbiamo conosciuto tutti e tre, esatto, sappiamo che potresti finirla male, esatto. Guarda che non sono tutti come noi, esatto. Allora quindi allora abbiamo scritto Carlo Lady of the Night, esatto. questo pezzo praticamente il testo è abbiamo stabilito, abbiamo sviscerato, e la musica è molto romantica, e tipo cullare, tipo a vincere, tipo... Sì, quello è un po' quello che vuole... Sì, è quello è l'immagine che si voleva dare, l'immagine sonora che si voleva dare, appunto. E dal vivo come lo fate questo pezzo qua? Così come l'hai visto ora? Non accentuato, leggermente accentuato. No, sempre lento così. Sempre così. Ho capito. Io mi sono confuso, perché... abbiamo detto c'è un collegamento però con la traccia numero 6 di disco nuovo, secondo sì, me. Sì, beh, secondo me se quella era la balla del pezzo lento del primo, questo è il pezzo lento del secondo, non esatto. che in ogni disco ci debba essere un lento. No, assolutamente no. Però un giorno dici come sei bella tesoro, un altro giorno le dai uno schiaffo sui fianchi, capisci? Però, stranamente di solito i pezzi lenti vengono almeno predisposti alla metà del disco. Sì. Del disco nuovo è il sesto pezzo, quindi è già positivo, cioè ci deve essere uno spartiacque, una frenata sì. e poi si deve riprendere. Forse una sorta così. Di sorbetto tra il pesce e la carne. Una sorta di sorbetto, fa bene il sorbetto in ogni caso. Fa benissimo. Fa benissimo il sorbetto. Agostino, sei d'accordo che fa bene il sorbetto? Lui è d'accordo anche lui che fa bene il sorbetto. Ok, a proposito di sorbetti, cosa facciamo se ci andiamo a sentire un pezzo dal disco adesso? Da disco nuovo o dal disco vecchio, Pier Maria? Lo prendiamo dal disco vecchio. Dal disco vecchio, cioè dal primo, da Hanging Bags. Benissimo, che, sì, che sì. Il secondo, perfetto, si ha capito. E si chiama The Toast. È la storia di un uomo che ha molto fame e dice senza fronzoli: ascolta barista, dammi da mangiare. Un bel toast. Ho bisogno di un toast. Ok, benissimo. I'm gonna get a hell of a toast. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. State ascoltando sempre Rock Wave. Questa è una trasmissione del mercoledì con Maurizio Calzavara al microfono, con Agostino Spolaori in regia, Roberto Baldi che se n'è andato, ha sistemato le webcam, e chiaramente il nostro produttore e organizzatore, che è Alberto Prisco, che salutiamo. Dicevo una cosa molto positiva mentre il pezzo andava, diceva Pier Maria, ed i produttori resettano i suoni live immediatamente. Ah, i produttori? E che qui Carlo è il produttore, ha sistemato il suono mentre il pezzo andava, come doveva sistemarlo, immediatamente. Proprio così, è perché il produttore così. Dice sì, cos'è la musica? Le sensazioni acustiche. Allora uno dice, io so che colore usare, rosso cremisio o terra bruciata? Produttore è roba sua lì. È proprio così, il produttore, sì. Come si dice, mette a posto gli angoli, smussa se c'è qualcosa che non va, sì. Sente, e poi se il produttore è anche il batterista della band è ancora meglio. Sì, allora. Ancora meglio, perché non lo fa per soldi, ma lo fa per passione. Esatto, questo è il motivo. Si parlavi giustamente che, visto che lo studio di registrazione è il tuo, c'è stato più tempo per registrare con molta calma, senza quelle pressioni. In tutti gli studi di registrazione ci sono le pressioni, chiaramente la bolletta cresce, ma va avanti. Certo, infatti, non c'è mica... Sì, questo ci dà chiaramente libertà nel poter anche eventualmente rifare un pezzo, risuonarlo, riregistrarlo con calma se proprio non ci soddisfa pieno. Esattamente. È una bella libertà, insomma, che però vedo che al giorno d'oggi nella musica, diciamo, quella che può essere vista come musica indipendente. Adesso, bene o male, con l'avvento di queste nuove tecnologie elettroniche di registrazione che sono molto più e come sono abbordabili. E come sono le nuove tecnologie di registrazione, visto che ci sei dentro fino al collo, nel senso positivo? Ma diciamo, nel mio caso, io sono un po' un caso atipico, perché io sono più, diciamo, un anacronistico come sono amante delle vecchie tecniche di registrazione, che sono anche più costose, più espansive dal punto di vista di manodopera, cioè sono più impegnative, ecco, perché avendo il nostro disco è stato registrato completamente in analogico su nastro, non è stato usato mai il computer, perciò è chiaro che il nostro caso è un caso a parte, però normalmente nella musica, diciamo, musica indipendente, con l'avvento appunto della registrazione su computer, uno può registrarsi una canzone addirittura sull'iPhone, tipo sull'iPhone si può registrare un disco, ecco. Siamo arrivati ormai a questo punto che chiunque, in qualsiasi posto, a costo zero, può registrarsi un disco con dei risultati molto buoni. Ma si perde il fascino però così, o no? Diciamo che si acquista dal punto di vista economico. È un po' come, se si può fare un esempio, dimmi. La differenza che c'era quando si facevano delle riprese in Super 8, in pellicola, che c'era il medium, ti dava meno possibilità di tempo anche proprio di. Perciò si doveva comunque già pensare e arrivare all'immagine in maniera più concisa possibile, mentre invece con le videocamere digitali si ha tutto il tempo che si vuole per riprendere, perciò si può riprendere tanto, però si è meno incisivi nella registrazione, in quello che si sta registrando. Sì, è bello, io ho sentito questo gracchiare, ma è bello così, perché come, come fosse dentro al palco, siete sul palco, state sistemando gli strumenti, il gracchiare dell'amplificatore che gracchiava. Bello della diretta, gracchiava, perché non c'è niente di male. È come sul palco ci arrivano i saluti dalle ragazze, noi salutiamo questa Elena Agnanti da Lucca che ci guarda, ci saluta, allora Elena, ciao. È amante del blues anche lei, chiaramente. E noi siamo amanti delle ragazze che amano il blues. Esattamente. Ok, adesso cosa sentiamo? Facciamo sentire i nostri ascoltatori. Adesso facciamo Postman Blues. Ah, Postman Blues, ok. Thank you. Eh sì, il colpo della batteria finale era d'obbligo, era dopo, vero Carlo? Era d'obbligo. Era, io l'ho sentito con un po' una venatura reggae sto pezzo, no? Cosa dite? Reggae? Leggermente reggae. Può essere quello, sì, ma... Leggermente anche. All'inizio, poi chiaramente si è sviluppato in altro... Però io un momento l'ho sentito con venature, quelle piccole venature reggae. Ma può anche essere se reggae, il reggae viene anche sempre da una musica... fatta di corpo, a movimento, certo, certamente. Potrebbe africano, anche essere, sì. Io l'ho sentita così. Ah, si può essere. Oppure quello che hai fumato prima della pausa. Diciamo. Sì, esatto. Sono un antifumatore convinto da sempre. Ok, adesso sono le 23:23 esatti, e l'ora canonica per i 5 dischi, facciamo 3, dai, da portare su un'isola deserta. Ah. E questo è l'indovinello, il giochetto, che non è l'isola dei famosi dell'avventura, è l'isola di Rock Wave, chiaramente. 3 dischi da portare su un'isola deserta, con tutti i mezzi, adesso abbiamo il compact disc o se no altri mezzi digitali, ma su un'isola deserta. Cosa portiamo su un'isola deserta? Chi comincia il giro? Una regola fondamentale di questo giochetto, ma è bello per sviscerare i vostri gusti, è di non copiare. Ah, ok, sì, perfetto. Ognuno sceglie i propri. Vuoi cioè. Te, Pier Maria, visto mi sei davanti. Ah, beh, vabbè, sì, non c'è problema. Allora, porterei sicuramente il primo disco che ho ascoltato di Hendrix, Axis Bold as Love. Ah, Jim, perché Jimmy? Cosa c'ha Jimmy? Che non era bassista, era un grande chitarrista. Ah, a me piace molto la chitarra. Mm. Fai conto che il basso lo suono da 4 anni, da 5 anni, in maniera, diciamo, insomma, che lo suono. Ma suono la chitarra, come vedi anche adesso. Sì, esattamente. Hai cambiato, sì, l'hai sì. cambiata. E anzi, prima. Te lo voglio già dire. Dimmi. Ora. Tutti e tre siamo chitarristi. Ah, vedi, lui è un batterista prestato, praticamente. Ma lascia stare Carlo, che poi ti spiego dopo. Sì. No, beh, a parte questo, tutti e tre suoniamo la chitarra e tutti e tre ci siamo conosciuti in quanto chitarristi e tutti e tre ci piace della musica questo graffio che questo genere mette in primo piano. Certo, certo, il graffio giustamente. Sì, sì, questa cosa qua. Graffiante, deve graffiare. E dove, quando ci siamo conosciuti, il Czech suonava la chitarra per caso, io il basso per caso e lui la batteria per caso. Abbiamo detto. A volte il caso, a volte il fiume si scrive, si disegna il letto per arrivare al mare migliore, certo, che ci sia. Vero. Questo deve essere. Perfetto. E così abbiamo continuato. Non c'è la possibilità di suonare la chitarra tutti e tre una volta? Certo, te lo facciamo adesso! Anzi, subito! Vabbè. Quando? Finiamo l'intervista delle isole del deserto. Axis Bold as Love. Che di Andy Snodget. Okay. Axis Bold as Love. Poi mi piace molto Rubber Soul dei Beatles. Dei come Beatles. Mai il periodo Rubber Soul Revolver, no, l'album bianco Sgt. Pepper? Perché Rubber Soul, io dal mio modo di ascoltarlo, è da quando Beatles, fanno il passo verso i Beatles, dove anche la canzone aveva dietro qualcosa. Certo, certo. E quindi c'è il sapore di tutti e due. Esattamente. Come avere la bella ragazza vestita benissimo, con le scarpe di vernice in tinta con la borsetta, ma che è anche laureata. Certo, ho capito. Non so, di tanto vado. Sì. E terzo? E il terzo, non lo so, ma penso Muddy Waters. Ah, perché andiamo sul mio. Volevo portarne uno acustico, uno blues e uno elettrico. Ah, ho capito. Allora capito. Nel disco che ho a casa di Muddy Waters un lato è acustico e un lato elettrico. Quindi ha risolto tutte e due le cose. Chi tocca adesso? Andrea, vieni davanti al microfono. Allora, io porterei di sicuro Sticky Fingers dei Rolling Stones. Che bello, Sticky Fingers. Wide Horses, quanto bello è Wide Horses? Ed altre cose. Poi ricordiamo che Sticky Fingers, la famosa copertina di Andy Warhol, quella cerniera, già un capolavoro quella roba. L'album di Brown Sugar. Esattamente. Quindi Sticky Fingers, mitico Sticky per dei Rolling. Mi piacciono un pochino i Rolling Stones. Un pochino. E cosa ne dici della ristampa di Exile on Main Street? L'ho sentita, ho sentito anche il pezzo inedito, che vabbè, in mezzo a tante perle risultava anche, diciamo, non chissà che. Però diciamo che a risentirla comunque va sentito sul vinile. Certo, ho capito. Va sentito sul vinile. Ma loro hanno detto... Non ce n'è. È giusto riportarlo, rimetterlo su, di farlo sentire come CD. Poi più blues che hanno fatto. Sì, è un disco proprio. E non era stato molto amato all'epoca. No, infatti. Era molto stato criticato, non è entrato nelle classifiche come di solito. Erano appunto un periodo un po'... Sono andati in ristallo in Francia, esattamente. Sì, c'erano tante idee, però... c'era più Keith Richards, molto Keith Richards, sì, su sì, questo sì, disco. Stiamo leggendo un libro in questo periodo. Non l'ho letto, ma l'hai letto? Sì, letto, l'hai letto, sì, è tremendo. Sì. So, sei molto contento di Mick Jagger delle sue delle considerazioni che fa. No? Niente, dopo altri album, Sticky Finger, sì. Dopo che mi piace tantissimo, è Are You Experienced di Jimi Hendrix. Ah, anche lui, come Pier Maria. Pietro Maria, però Are You Experienced del primo disco, mi piace di più quello. Ma Hendrix, dobbiamo dire una cosa: Hendrix ha inventato il modo di suonare, c'è poco da fare, l'ha inventato propriamente. Era un chitarrista. Dopo, ecco, mi porterà un disco o Highway 61 Revisited o Blondon Blonde di Bob Dylan. Sempre periodo elettrico, sì, dall'acustico è passato all'elettrico. Poi quell'epoca, quando è passato all'elettrico, ha ricevuto i pomodori, altre cose, però. E per ultimo è diventato Born Under a Bad Sign di Albert King, che è un disco blues. Questo è proprio blues, esattamente. Quindi il Dylan elettrico, i Rolling Stone più elettrici, anche se Sticky Finger non è proprio ovviamente più elettrico, ha delle ballate meravigliose come Tide Horses. Sì, quel disco lì c'è tutto. E poi Andy's ballate, rock and roll, sì, blues, c'è un po' di tutto, funk, esatto. Psichedelia, c'è tutto. Carlo, cosa c'è? Cosa fai? Cosa esponite? Ma il problema fondamentale mio è che io conosco talmente una quantità di dischi e ho ascoltato talmente. Però se dovessi scegliere dei dischi che sono stati significativi per me, potrei dire Jimi Hendrix, a quel punto, visto che è un Jimi, non si può non citare Electric Ladyland. No, possiamo Electric Ladyland, famosa, esatto, copertina, sì, censurata, sì, negli Stati Uniti, in Europa, siamo perdere. Al di là della copertina, un disco epocale, doppio album. C'è un altro disco che ha, diciamo che forse si sente di meno, però diciamo io sono molto legato, che è il terzo album di Soft Machine. E come mai? Terzo, ci fermiamo un secondo, come mai parla di Soft Machine? A me interessa il discorso di Soft, il calterbo di sound, perché sì, di Soft Machine? No, perché questo disco è il 4, l'ho comprato più di una volta in CD, tutte le volte che usciva la versione io compravo sempre il CD, già ce n'ho 3 o 4 di CD questo album qua, perché mi piace talmente tanto che l'ho ricomprato tante volte. Erano grandissimi. Perché c'è comunque dal punto di vista strumentale molto interessante, diciamo che è forse un piacere meno di cuore, che più di testa che di cuore, forse, perché di cuore magari più direi più una raccolta degli Oliver Onions, magari. Sì. Orson Welles. No, quello infatti era la terza scelta che dicevo, era proprio una qualsiasi raccolta degli Oliver Onions di Guido Maurizio De Angelis. E come mai Guido Maurizio De Angelis? Non so, perché forse fa parte dell'imprinting della mia infanzia, insomma. Io sono nato nel 77, perciò sono stato proprio... Tutti i film Terence Bud Spencer? Sì, diciamo che la mia infanzia è stata molto molto scossa da queste melodie molto molto molto forti, molto italiane, molto infatti sono proprio colonne sonore. Chiaramente. Ma sono i musicisti validissimi al di là delle colonne sonore. Tante altre cose. No, ma conosco molto bene i fratelli De Angelis, da cui io ovviamente voglio mandare i miei saluti e il mio attestato di stima, esattamente. Perfetto, è la prima volta che citiamo i fratelli De Angelis, dunque in 5 anni di Rock Wave, nessuno li ha mai citati. Non sono esattamente una roba rock. Agostino lo può confermare in parte, perché non era ancora presente, però in 5 anni abbiamo fatto queste domande, questa isola deserta, è la prima volta che citiamo i fratelli De Angelis, niente da dire, sono bravi, hanno fatto delle cose molto belle, molto importanti per la musica italiana. Musica italiana, musica pop a 360 gradi, quelli di fratelli De Angelis, possiamo dire così. Ok, adesso facciamo un altro pezzo da disco, dal disco nuovo probabilmente, o dal disco vecchio, Pier Maria? Facciamo dal disco nuovo. La traccia? La traccia numero 12. Bravo, perfetto. Ok. Che? Dimmi, il titolo della traccia numero 12? È la tua. Dai, Too Much Fun, l'ultimo. È certo. La tua, ne parliamo un momento. Io ho scritto parliamo un momento, questo pezzo molto bello, io l'ho scritto, che a me è piaciuto molto. Sono contento che sia piaciuto, guarda, mi piace molto. È un brano che ho scritto, che così mi sono posto delle domande, una delle quali era: ma mi starò divertendo troppo? Ho capito. C'è qualcosa forse che non sta andando bene? O forse va troppo bene, ma sarà troppo? E niente, è nato così, è nato la chitarra, è nato semplicemente la chitarra, e poi quando è stato messo insieme con i ragazzi ha preso questa forma. Diciamo che sono contento che ha mantenuto questa atmosfera un po' onirica, un po' da sogno. Posso dire che è leggermente sfasato nel senso positivo rispetto agli altri tracce del disco. Sì, beh, diciamo che magari è un po' diversa, però sì, effettivamente magari diciamo, ma sfasato magari, non negativamente, no, no, chiaro diciamo che magari di un certo stile di rock, di un certo stile di rock, ecco, si rifà magari di meno alla matrice blues, è vero, sì, è però vero. Così ci piace molto, è una canzone bella che stiamo anche facendo dal vivo, stiamo cercando di qua stasera di purtroppo ragazzi non la fanno sentire dal vivo perché ci sono degli strumenti un po' particolari, dei suoni un po' particolari. Sì, sì, no, volendo si può fare, non c'è problema, la facciamo, anzi, sarebbe anche carino. Però così, sfruttando il mezzo radiofonico, è meglio. Molto romantico per me poter pensare che la nostra canzone viene messa come viene così, con tutto l'arrangiamento. Insomma, così come il disco è. Magari perfetto. Piace, se la comprano. Ok, la sentiamo allora. Staring at the corner of my eyes, many pretty colors will tear the mind. Where have you been? What have you done? Am I having too much fun? What did you see? What did you see? Do you always feel the same? Looking through the window of a riding train, where I'll be tomorrow, I'll find my place. Where have you been? What have you done? Let me see behind your mind. What did you see? What did you see? Do you sleep at the break of day? Place. Where have you been? What have you done? Let me see behind your mind. What do you see? What do you see? Do you always thank you. Eccoci qua, abbiamo sentito questo pezzo meraviglioso, questa ballata, questa cosa psichedelica alla fine, cosa dici? Sì, Pier Maria? Sì, hai usato la parola che anche Pietro Maria o Pier Maria? Pietro Maria. Pietro Maria, scusami. Sì, ma figurati. Sì, psichedelica, mi piace poter pensare che la nostra canzone tocchi quelle corde che anche noi abbiamo messo in moto per farla, insomma. Deve essere appunto così un po' sognante, un po' psichedelica, un po' che pone delle domande e delle risposte, ma... C'è qualche sviluppo in un prossimo futuro su questi pezzi? Cioè il blues lascerà momentaneamente qualche volta il passo a queste ballate un po' al di fuori del gergo? Ma io credo che... Ditemi ragazzi se sbaglio. Andrea, cosa dici? Forse Carlo. Io credo che non sia il nostro intento di essere una blues band. Perché ho capito. È giusto portare gli abiti, parlo per me in questo momento, che meglio calzano. A me piace molto il blues e si sente in quello che suono, in quello che faccio, perché è come un accento. Ho vissuto in un posto e prendo quelle cose. Quindi credo che ci sia sempre dentro un po' di blues, anche se fai delle canzoni che non possono essere catalogate. Sì, certo. Però dal blues si possono sviluppare altre cose. Sì, io credo che blues non sia solo un genere musicale, ma sia anche un approccio alla musica. Sì, un'attitudine. Anche giusto. Un approccio a come imbracci lo strumento o a quello che ti piace della musica, che può essere a molti aspetti. La musica ha tantissimi aspetti. Il genere blues non è solo una forma. Certo, è un modo di mettere in punto determinate cose, di sviluppare determinate cose. Visto che siamo verso le 23:15, ricordiamo come si chiama il vostro album nuovo. L'album nuovo si intitola Royal Rumble. E dove si può trovare Royal Rumble? Royal Rumble si può trovare ai nostri concerti. Certamente. Si può comprare in tutto il mondo grazie a iTunes, Music Store, o Amazon.com o CDBaby.com, i più grandi canali. Sì, certo. E fanno molto anche nei migliori negozi di dischi. Oh, quando verrà fuori, chiaramente. No, è già uscito. È già uscito, però. Diciamo che dobbiamo solo formalizzare con una casa distribuzione. E però questa casa di distribuzione italiana ha detto che è un po' insolito, perché un'etichetta come la nostra, che di fatto siamo solo noi tre, possa accedere a un canale già istituito, insomma. Certo, ho capito. E invece è successo così, ha detto ci piace molto la vostra musica e quindi lo mettiamo nel catalogo. Bene. E quindi si può trovare dappertutto. Benissimo. Chiedete Royal Rumble dei Check Deluxe e lo avrete. Oltre ai Check Deluxe qui presenti, tre, chi vi suona qualche altra persona dentro il disco? Ha partecipato qualche altra oppure no? Ah no, nei nostri dischi non partecipa nessun altro. Assolutamente. Anche perché fortunatamente... Fortunatamente suoniamo tutti più strumenti e quindi tutti gli strumenti che senti nei nostri dischi sono suonati da noi. Da voi, totalmente da voi. Sì. E tutti guidati da Carlo. Sì, Carlo è il capitano della nave. Tutti sappiamo quando si sta in studio, poi quando si è nei live, nel senso ognuno nave, va per, ognuno nave, va per no, proprio. No, che non c'è il dittatore qua alla nave. Quando è in studio Carlo, allora in studio diciamo che do un po' cerco di sì, fare un po' di un po' la somma delle la cose. La somma delle cose, chiaramente. Dobbiamo salutare una persona? Sì, salutiamo Simone. Salutiamo il grande Simone Elgast, batterista dei Van Cleef Continental. Sì, che sono venuti qua a suonare tempo fa. Ronnie Peppers, grande personaggio di musica rock, grande che ci ascolta, grande Simone. E la fucina, abbiamo detto all'inizio con Andrea, la fucina dei talenti che vengono da Brescia, dai dintorni, vuol dire tutta questa gente brava che viene a suonare, che suona. Bello. È bello, è molto forse bello. È nato per contrasto, se lo stereotipo di Brescia è quelli che lavorano, gli industriali, se la musica sì, per esatto. Stereotipo è vai la testa per le nuvole, magari per contrasto. È vero, è una cosa giusta. Charlie Cinelli, che abbiamo citato con Carlo mentre il pezzo andava, è venuto qua a suonare, ha fatto un concerto strepitoso, è una cosa molto bella, ha tradotto il bresciano. Come noi che... No. Non abbiamo capito molto, lui ha tradotto, è una cosa molto positiva. Poi è un grande personaggio, veramente sì. È suonato con un sacco di gente e continua a suonare. Continua a proprio di suonare. Le date, riuscite a trovarle? Avete qualche data? Potete citarle diciamo adesso? Che il periodo più favorevole è sempre il periodo estivo. Primavera, estate, fino adesso abbiamo sempre fortunatamente suonato. Anche parecchio. Questo periodo invernale ci sono un po' meno concerti. Il prossimo, non perdetelo, è allo Stile Mio, un locale a Brescia, Roncadelle di Brescia, che è l'ultimo sabato di gennaio, che è il 30 mi sembra. Sì, 30 mi pare. 30 gennaio suoniamo allo Stile Mio a Brescia, è un locale che merita, venite perché... 29 gennaio lo stilo mio di Roncadelle, è un bellissimo locale lì, se volete fare un bagno. E poi per marzo c'è in programma una trasferta in Germania. Bene. Che lì ci andiamo, iniziamo questa avventura tedesca. Sì, andiamo vediamo di cercare avete, porta a porta, insomma. Avete sfondato quell'avventura americana, quella tedesca, può darsi che si prova, insomma. Si prova. Proviamo, sì. Fortunatamente, insomma, diciamo che i concerti, guardando il rovescio della medaglia, i concerti ci sono grazie al disco, perché certo. Diciamo che noi non abbiamo una struttura, nessuno di noi diciamo si occupa attivamente nella promozione, insomma, per farsi conoscere uno può dire la poesia più bella del mondo, ma se la dice in camera sua finisce lì. Però fortunatamente devo dire che i concerti arrivano sempre di più anche in posti a noi nuovi grazie al disco. Mm-hmm. Che quindi che piace, sta girando, quindi certo. Sta creando curiosità. E noi non abbiamo un'etichetta, ufficio stampa, manager, non abbiamo mai. Siete voi manager di vostri stessi? Sì, assolutamente. Sì, nel bene e nel male, perché insomma. È difficile. Più che difficile, diciamo che è un lavoro che si deve imparare, anche quello, bisogna avere esperienza. tanti anni che uno suona, bisognerebbe spendere gli stessi anni in esperienza, esatto, a fare quel lavoro lì. Esattamente, il musicista si deve dividere tra musicista e imprenditore, tra parentesi, di e se diciamo stesso. Che la consolazione, insomma, i frutti che stiamo prendendo, insomma, sono grazie al disco, grazie alla nostra musica, insomma, ecco. Benissimo. Grazie. Pietro Maria ha fatto ha fatto capire benissimo che cosa vuol dire fare praticamente lo sponsor di se stesso, non mica semplice. Cosa suoniamo adesso, ragazzi? Carlo, cosa suoniamo? Io direi che facciamo Wasting My Time. Dai, questo è il nuovo album. Dai. Ok. Andate, ok. Facciamo. Sì. Wasting My Time. Thank you. Andrea Cech Franceschetti alla chitarra solista, Pier Maria al basso praticamente e Carlo Slim alla batteria. E le tre chitarre dove sono? Eccole, subito, lo facciamo subito. Certamente, subito. Io voglio sentire tre chitarre. Ok, vai. Tre chitarre. No, anzi, facciamo una permutazione, facciamo tre chitarristi e una chitarra. Ah, tre chitarristi e una chitarra. Sempre quella, benissimo. È una cosa, una performance assolutamente unica. Tutto dal vivo, tutto in diretta, chiaramente. Non è successo assolutamente nulla, stanno mettendo a posto le cose. Tre chitarre, una chitarra solo con tre chitarristi. Ecco, un secondo solo. Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Applauso, bravissimi, una chitarra con tre diverse posizioni delle mani, bravissimi, straordinari, è la prima volta che vedo una cosa simile. Tanti anni che facciamo Rock Wave, sono 5 anni, non è mai capitato, bellissimo. Quindi siete tre chitarristi fondamentalmente. Sì, diciamo che siamo tre chitarristi prestati ad altri strumenti, voi due. E diciamo che ci piace tanto la musica e ci piace vedere anche che altri aspetti della musica altri strumenti prendono, certo. Quindi siamo chitarristi, diciamo che è una scarpa che portiamo più spesso, ma mettiamo il tacco quando c'è da andare dall'ambasciatore, certo, o la ginnastica per andare a fare la corsa. Esattamente, la fate anche sul palco un esperimento simile o una cosa fatta solo per Rock Wave stasera? No, la facciamo quando ci chiedono, ma tutti e tre suonate la chitarra, allora improvvisate ed così. È capitato anche sul palco, sì. Una cosa simpatica, insomma. È molto simpatica. Un pezzo strumentale con un momento, Andrea dice una frase, sì, e esatto, poi ritorna strumentale. Solito una frase improvvisata, certo, dalla giornata. Esattamente, poi ritorna strumentale. Benissimo, sono le 23:30, perfetto orario, quindi abbiamo mezz'ora abbondante per ancora parlare della vostra musica. Abbiamo parlato del disco vecchio e del disco nuovo. Quando fate dal vivo, c'è una divisione a metà tra i pezzi del disco nuovo e del disco vecchio o così, improvvisato una scaletta senza nessun confine, cioè una scaletta che voi non conoscete, la gestite in quel momento. La scaletta è strutturata più o meno in base al tipo di ritmo dei pezzi, che va. O a volte in base anche alla nostra predisposizione, alla nostra esatta quantità di energia che dobbiamo, non so se un pezzo per esempio ci porta magari per la lunghezza o per la struttura ci porta, non so, via tante energie. Ho capito. Tende a tenerlo verso la fine del concerto. che improvvisazione c'è nei pezzi? La scaletta, cioè il pezzo, viene eseguito più o meno come dal disco o improvvisate, ampliate, allargate o riducete? Diciamo che il brano esiste perché ha dei punti di riferimento chiari. Sì. E tra un punto di riferimento e un altro c'è l'improvvisazione del momento. O no, ragazzi? Sì. Assolutamente. Sì. C'è l'improvvisazione del momento. Quindi diciamo che i brani sono, il testo è quello, l'atmosfera è quella, però la cosa bella è che durante il live si possono, non dico stravolgere, ma possono prendere delle pieghe che magari sul disco non ci sono, perché le canzoni quando sono eseguite sono anche figlie di quello, cioè, che succede, di quel momento, del momento, di come si sente, di come il pubblico sta partecipando, e quindi diciamo che alcune improvvisazioni che sono venute particolarmente bene, dicono anche bello però quella cosa che abbiamo fatto, è capitato molto spesso che poi diventino arrangiamenti o diventino loro improvvisazioni dei punti di riferimento. Ho capito, benissimo. Un'altra cosa che vi devo chiedere è questo: quando suonate c'è sempre lo spazio, uno fa un assolo, c'ha qualche minuto per lui, un altro fa un altro assolo, qualche minuto per lui, e Carlo che ha la batteria ha qualche minuto per lui, succede così? Ma nell'insieme del pezzo più stesso. Più che minuti a una persona è quello che il brano in quel momento richiede in favore della musica. Se quel brano in favore della musica richiede quella tal cosa, che non so, la batteria in quel momento è quello che più può gestire quella tal cosa che vogliamo enfatizzare, va. Però non è una cosa, diciamo, individuale, al mio momento, al tuo momento. No, pensavo sì, alla combo classico, alla cream classico, per dire. Beh, sì, diciamo che ci sono anche i momenti in cui vai solo di batteria. Esatto. Vai solo di basso. A noi piace il fatto anche di che ci siano anche due su tre o anche tre su tre strumenti che in certi momenti fanno il solista. Ecco, questo voglio dire. Dicevo questo. Anche due chitarre contemporanee, quando Carlo suona il basso col synth. A me piace, tanto quando due chitarre fanno gli assoli. Non è detto che una chitarra deve fare la ritmica da solo. Mi piace quando anche tutte e due fanno l'assolo, che si incrociano, lottano. Bene, è chiaro. Sì, è bello. E questo è nello spirito della musica. Sì, anche un po' Royal Rumble. Royal Rumble. Questa commistione di cose. Sì. Ok, 23 e 33. Facciamo sentire un altro pezzo da disco. Che traccia è? Scegli tu, Carlo. Dai, Carlo. Facciamo sentire la 6, la famosa 6. La famosa ballad. La traccia dall'ultimo disco, la traccia numero 6. Sì, quello dal disco nuovo, Rumble. Si chiama Rumbling Mind. È una ballad che io ho scritto nella recensione, mi ha scritto con Alberto, una grande ballad cleptoniana anche questa, nel senso positivo del termine. Adesso la sentiamo. The words are flowing out like landslide running down to the ground. Against this flow I'm rowing. I'm losing strength while I'm going down. You're something I can stand, I can describe. You're something that is rumbling in my mind. We were laying in the couch tight, but we were only holding a dream, afraid of our weakness. You're something I can stand, I can't describe. You're something that is rumbling in my mind. Don't know where I was going, but sure I was just looking for you. The thought that I controlled you, that you're slipping out of my life. It's something I can stand, I can't describe. No, no, it's something that is wrong. Flowing out like a landslide running down to the ground. Against this flow I'm rowing, I'm losing strength while I'm going down. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, state ascoltando sempre Rock Wave. Questi tre ragazzi che vengono da Brescia ci propongono del rock con molti connotati blues. Carlo aveva detto una cosa molto interessante mentre il pezzo andava. Negli Stati Uniti, quando sono andati in tournée negli Stati Uniti, sono andati a Memphis, sono andati a Houston, New Orleans, hanno comprato degli amplificatori, vero? Certo, Pietro Maria? Sì, che questi funzionano a pile praticamente, quelli avete portato stasera. Gli amplificatori che stiamo usando stasera. Esattamente. E con quelli, comprato questi amplificatori, suonavate per strada, avete trovato degli ingaggi praticamente. Certo, abbiamo trovato, sei lì che suoni, passa il tizio, durante la pausa vai al bagno, usi il Vespasiano a fianco a un altro. Certo. E questo Vespasiano, ah, ma ti ho sentito suonare, voi eravate quelli lì fuori, sì sì, ma cosa fate? Siamo un gruppo, portiamo in giro il nostro disco. E in America succede. Ma dove questo? State andando? A New Orleans, ah? Casa mia è sulla strada. Vedi? Ho un locale sulla strada ad Indianola. E ti hanno ingaggiato così. Così e lì già, e grazie a questi amplificatori che sono a pile, ripetiamo, quindi possono essere suonati senza corrente nessun supporto. Come un telefonino. Perfetto. Tu lo carichi e lui va. Grazie a questo abbiamo trovato serate, ingaggi, un luogo dove dormire, amici nuovi. Vedi, Agostino, in Italia queste robe non succedono mica. Assolutamente, è un altro mondo, c'è poco da fare. Ma probabilmente pure noi eravamo in un'altra circostanza e anche chi ci vedeva diceva: ma pensate, ora questi qua. Vedi, è una cosa bellissima. E avevo ragione. E poi una cosa molto semplice, anche economicamente parlando, diceva Carlo che anche in America, anche in Italia ci sono, ma costa un pochettino di più. Decisamente un poco di più. E li avete comprati a Memphis, agli Outlaw D. Dell'etichetta della casa di produzione praticamente. Ma praticamente è presente l'outlet, quei negozi dove vendono a basso, a prezzo ripazzato. Esattamente. L'outlet della Gibson. La più grande casa. Un mito. Esatto. A Memphis c'è proprio la fabbrica. Fabbrica della Gibson, esatto. Noi ci siamo passati davanti migliaia di volte. Per un sacco di volte continuiamo a passare davanti a questa. C'era un vetro grandissimo quando siamo una segheria. Guarda che segheria. E noi i primi giorni diciamo: che strano qua, una segheria in mezzo a Memphis. È solo che era il retro della fabbrica. Lì invece costruiva, era proprio la fabbrica della Gibson, ma noi non facciamo assolutamente pubblicità. La Gibson la conosco. Non l'avevamo capito. Inc- incredibile, incredibile. Sono negli Stati Uniti su queste robe. Quindi ha trovato gli ingaggi comprando gli amplificatori. Esatto. Sì, è una cosa molto bella, molto positiva. Sì. Ma cosa avete suonato da sto personaggio di Memphis, praticamente in un locale suo, praticamente? Allora, lì eravamo a Indianola, nel Mississippi. Eravamo a Indianola, nel Mississippi, che è la città natale di B.B. King, tra l'altro. Tra l'altro. Esatto. E niente, questo. Ma che si chiamava? Steve, no. Come si chiamava? Oh, Jim Mills, Steve. Steve. Ah, Steve. Steve della Jim Mill, che era il locale. Niente, ci fa, venite perché vi faccio fare un concerto nel mio locale. Solo che dopo ne abbiamo fatti altri quattro. Perché lì praticamente si era nato una bella amicizia. Bella amicizia. Loro li prendevano bene che noi suonavamo lì tutte le sere. I locali americani come sono? Locali americani, allora la cosa che abbiamo notato è che per esempio lì non è che c'è tipo il sound check o troppe preparazioni, cioè no. Lì i gruppi arrivano, cominciano a suonare, anche perché spesso prima di te stava suonando un altro gruppo. Ah, ho capito. E vedi proprio la gente che entra nel bar con gli strumenti in mano, proprio così sciolti. Bellissimo. E si danno il cambio, bellissimo. Insomma è molto più agile, molto più semplice, si suona e basta, si dà il cambio e si suona. Esatto. E in genere voi suonavate blues o rock blues e gli altri che avete sentito? Ma allora generalmente lì nel sud, le zone che abbiamo girato noi, sono luoghi dove la musica è nata, un po' tutti i generi sono nati e lì sinceramente... Io per esempio, che sono un appassionato di blues, mi aspettavo di vedere blues, ascoltare blues dappertutto. Mentre invece ho notato che lì la musica è vista a 360, cioè a New Orleans puoi trovare dell'ottimo heavy metal, dell'ottimo jazz. Nello stesso locale, due sere reggae, la terza sera la brass band, non la c'è questa esatto, non questa c'è questa ghettizzazione. Sì, anche non un po', chiamiamola anche un po' snobismo, perché vero, spesso, soprattutto in Italia, soprattutto per quanto riguarda il blues e il jazz, c'è tanto snobismo, diciamo bisogna stare negli Stati Uniti e capire allora. Esatto, che le cose bisogna prendere anche un po' più per quello che sono, insomma. Ci si sta divertendo, si suona, si vivono dei sogni di rock and roll, insomma, vedi, tutti oltre l'oceano si capisce, cioè si ricepisce le cose che vengono riportate, ma no, mica sempre sono vere, sono diverse. Ok, 23:42, suoniamo. Cosa suoniamo? Visto che ci siamo, tornando a bomba, facciamo questa canzone, si chiama giusto appunto Memphis Tennessee. Perfetto. Radio Veneto. Thank you. Ok, Andrea chitarra, la Fender Stratocaster, Pietro Maria aveva l'armonica, sì, e Carlo aveva il mandolino. Banjo. Ah, il banjo, il mandolino, banjo, il banjo, il banjo, il banjo americano. Benissimo, un po' countryggiante, sì, ma un countryggiante con la vena, beh, di blues, ma un po' countryggiante. Del profondo sud o no? Beh, l'ispirazione, ispirazione, sì, sì, sì, sì, sì, colline, dalle colline, dalle colline. Non, è quella, non sono le colline vicino a Brescia, sono le colline americane. No, ma è vero, ma come tu saprai, c'è del sud, certo, ma sud vicino al delta, certo, o il sud sulle colline. Vuol dire, è importante, è fondamentale, fondamentale. Bello questo spirito da muovere la gente. E poi le radici della musica americana è questa qua praticamente. Questo banjo, che non era elettrico, è assolutamente acustico, non era elettrificato, Carlo, cioè, c'è l'armonica che non l'hai, era l'armonica normale, sì, l'hai un po' amplificata grazie al microfono praticamente. Ah, sì, sì. Esattamente, e la Fender Stratocaster di Andrea, quella è fissa, quella non manca mai. Perché la Fender, Andrea, non la Gibson? In realtà, da quando ero piccolino, il sogno di chitarra era la Gibson. Era la Gibson. Precisamente la Gibson Les Paul nera. Ah, quella famosa, mitica. Che usava Keith Richards. Esattamente. Jeff Flash. Quella mitica. Solo che poi quando mi sono recato al negozio per prendere quella che addocchiavo da un anno lì in vetrina, quando sono andato per prenderla, praticamente l'avevano già venduta. Ah, e allora hai deciso di buttarti sulla Fender. E allora ho cambiato radicalmente gusto. È il caso, ho voluto che iniziato a suonare Fender. E se inizi a suonare Fender, muori suonando la Fender, perché ti abitui. Visto che sei passato vicino alla fabbrica, non hai avuto l'idea di comprarne una là? Sì, economicamente, no, se era possibile, no, farlo. L'ho comprato una chitarra e purtroppo me l'hanno rubata. Me l'hanno rubata qua in Italia circa l'anno scorso. Ah, peccato. È una grande delusione. Grandissima delusione. Sì, sì. Facciamo un appello, se per caso. No, ormai, dove è andato? No, io faccio un anatema. Chi suona uno strumento rubato sono sette generazioni di cattiva musica. Esatto. Sì, purtroppo è andata. Purtroppo è andata. 23:48, siamo impiacevolmente ascoltando la musica, i suoni, le immagini, le emozioni di questo combo, sì, combo bresciano di musica. Sì. Possiamo dirlo così? Certo, vostra band. Un combo. Bello combo. Suoniamo un altro pezzo, che pezzo volete suonare? Cioè, io sto distruggendo la vostra scaletta, è vero? No, però? No, assolutamente, anzi, le cose più belle. Facciamo Samuel si spy, parte l'acqua. Certo. Ok, ok. Papa Wolf. No, Papa. Un cavallo, dai. Samuel si spy, tranqua. Sì, adesso si stanno preparando, ecco, tutto dal vivo, adesso Pietro Maria prende l'altra chitarra, quella bella nera. Bel basso nero, che bello. Mi ricorda quel basso che suonava, sai, il leader degli Who, il co-leader degli Who. Sì, è simile. Sì. Ma sai che in alcune foto mi hanno detto che io somiglio a lui. È vero. Se n'è andato purtroppo quel grande bassista. Esatto, se n'è andato un po' di tempo fa, ma è un grandissimo bassista. Your bed, cold rain. can hide. Nobody hear your crying. Look at someone else's body. No way you can hide. Nobody hear your crying. I'm licking someone. Andrea Cech Franceschetti alla chitarra, Pietro Maria Tisi il marchese al basso e Carlo Slim Podighe alla batteria. Questi sono loro, sono, vengono da Brescia. Cech, in italiano si chiamano Cech Deluxe. Sì, sì, va bene. Cech Deluxe. In Europa Cech Deluxe. Esattamente. Overseas Cech Lux. Deluxe. Cech Deluxe in Europa, da Brescia con furore sì. musicale. Sì, col furgone. Molto furore musicale. Sono 23:54 e abbiamo quasi finito, ragazzi. Abbiamo gli ultimi 6 minuti. Parliamo un momento. Vuoi ricordare un'altra volta la data del 29 gennaio? 29 gennaio allo stile mio di Roncadelle, che è una frazione di Brescia, il locale più rock and roll che c'è in città, ragazzi, dalle 11 inizia il concerto. E poi fino a notte inoltrata. Fino a quando c'è l'alba lì, quando va avanti si la suona, musica. Si suona, sì, si sì, suona. Sì. Ricordiamo dove possiamo reperire il disco, oltre nei siti, che hai citato già Maria, sì, Pietro Maria. Tutti i nostri dischi sono si possono trovare su iTunes Music Store, Amazon.com o CDBaby.com e fanno molto in tutti i negozi di dischi. Il vostro sito? CheckDeluxe.com. Dove si, cosa si può trovare in CheckDeluxe? CheckDeluxe.com essenzialmente qualche foto, qualche contatti, qualche riferimento, un po' di preascolti, un video e dei link per vedere cos'altro facciamo, la pagina Facebook, certo, certo. E altri siti dove si possono sentire senza acquistare l'album, le canzoni, quindi ecco, sia un punto di riferimento. Esatto, produzione di Carlo Slim Podighe, che ha prodotto tutti gli ultimi due, cioè i loro vostri, due album, ultimi album e il prossimo produrrà probabilmente. Speriamo. Quello importante. Sono ancora sulla piazza. Sicuramente ci sarete sulla piazza. Il 2011 è appena iniziato, avrete un anno di concerti. Dai. Avete iniziato siamo in gennaio, quindi abbiamo poi tempo. L'anno inizia con l'ospitalità che tu ci hai riservato, che voi ci avete riservato, davvero. Che per noi questi la musica vive anche grazie alla gente che lo trasmette, certo. E che insomma io poter sapere che dei ragazzi padovani o in tutto il mondo tramite internet hanno sentito grazie alla radio le nostre canzoni, Cech Deluxe stasera, bellissimo, è una cosa meravigliosa, quindi l'anno è cominciato bene. Bene, una cosa meravigliosa, grazie a voi che siete venuti, grazie ad Agostino Spolaore in regia. Adesso terminiamo con un bel pezzo da per superare la mezzanotte. Che pezzo ci fate sentire? Grazie, buonanotte a tutti. Domani ci sarà Agostino con la sua trasmissione di Alberto Prisco con la sua classifica. Venerdì avremo un live acustico di gente che fa country. Bellissimo. Soprattutto canti dalle bello. 22:15 con Marco Borgato. Vi ascolteremo. Certamente. Yeah. Grazie a tutti, grazie ai Cech Deluxe e via con l'ultimo pezzo. They ain't got no blues vacation stopping me mile from my destination. They ain't got no blues vacation stopping me mile from my destination. Yeah, nobody loves me, nobody seems to care. vacation. Stop your mind from my destination. Hey, ain't got no blues vacation. Stop me in my mind from my destination. Nobody love me, nobody seems to care. Nobody love me, nobody seems to care. Stop a mile from my destination. Hey, ain't got no blues vacation. Stop me a mile from my destination.